566. Sfogliata di marzapane. Fate una pasta sfoglia nella quantità e proporzione del numero 154. Quando spianata, tagliatene due tondi della dimensione di un piatto comune a grandi smerli sugli orli. Sopra ad uno di essi, lasciandovi un po' di margine, distendete il composto di marzapane del numero 579, che dovrebbe riuscire dell'altezza di un centimetro circa. Poi sovrapponetegli l'altro tondo di pasta sfoglia, attaccandoli insieme sugli orli con un dito intinto nell'acqua. Dorate la superficie della sfoglia col rosso d'uovo, cuocetela al forno o al forno da campagna e dopo spolverizzatela di zucchero a velo. Questa dose basterà a 7 od 8 persone e sentirete che questo dolce sarà molto lodato per la sua delicatezza.